che hai preso prima le devi buttare. Ci sono i contenitori delle, per buttare la plastica, no? E l'acqua. Là ci buttano di tutto. Quando arrivano le donne delle pulizie, svuotano e devono fare loro la raccolta differenziata, cioè devono separare la plastica, le bottiglie da tutte le altre porcherie. E ogni giorno portano fuori sacchi di quelli che dicevi tu, grandi, sacchi quasi all'altezza d'uomo, pieni di bottiglie di plastica. L'acqua la svuotano nei bidoni che poi buttano fuori negli scoli che ci sono nelle aiuole esterne, capito? Ma 2 litri d'acqua si buttano via, plastica a non finire, e senza contare tutte le altre porcherie che buttano. Per carità, guarda, per carità, siamo una massa. Vabbè, no, io no, però non mi definisco come loro, perché a me, io non la butto la roba per terra. Io se sto guidando col mezzo e mangio un panino oppure mi fermo, mi accorgo per fare la pausa, io prendo, mi fermo e la roba mi faccio un sacchettino e la porto a casa. La mia compagna la prende e la mette insieme alla mondetta di casa, perché noi qua non fanno la raccolta porta a porta ancora, e la porto all'ecocentro, perché noi andiamo, io vado all'ecocentro direttamente qua tu a buttare la mondetta, mi viene comodo, me la carico prima di andare a lavoro alle 7:30, vado e la butto via. Mi viene bene, mi viene meglio, invece di uscire la sera ai cassonetti qua a stare al buio per i cani randagi e cose. E me la porto a casa, me la porto a casa. E questa invece io vedo gente che prende e mangia il panino tutto dal finestrino. Ma ci rendiamo conto che siamo delle bestie, cioè sono delle bestie, perché io non mi definisco, io vedo gente che sono delle bestie, neanche la bestia la faccio prendere, neanche le bestie le fanno certe cose. E infatti chissà dove andremo a finire, tonnellate di rifiuti da non finire da noi, purtroppo è così, la gente non rispetta insomma la raccolta differenziata, buttano ognuno dove gli pare e poi alla fine ne pagheremo tutti le conseguenze di questi atteggiamenti sbagliati, di questi comportamenti balordi, diciamo, dai. Infatti quando vai in spiaggia trovi in mezzo alla sabbia di tutto e di più, microplastiche, cosa tutto non c'è, pezzi di polistirolo, catrame, oltre poi a tappi di sughero, cicche di sigarette, in qualsiasi spiaggia tu vai così, e se vai a cercare piano piano tu vai anche a Stintino, alla Pelosa, trovi le porcherie anche lì, sono un po' sotterrate ma ci sono comunque, perché nel passato per anni non si è stati attenti a queste cose e quindi è tutto sotterrato, ma se tu scavi esce fuori tutto. Sì, se te lo puoi dire, ma prima è santo una porcheria, c'è di tutto sotto la sabbia c'è di tutto. E vabbè, intanto hanno messo già il divieto di campeggio, io andavo sempre a fare i campeggi lì perché avevo la ruota, andavo a fare i campeggi, poi l'avevo venduta, poi andavo con le tende, con la tenda, però sempre, guarda, nel rispetto di tutto, uno schifo, non va più. Va bene Carlo, dai, mi ha fatto piacere, io sto andando sempre regolando qua, perché più scalda questo affare, più sale di va. sto sempre attenuando. E niente. Dai, speriamo che vada tutto bene, che la gente diventi un po' più civile. Davvero, speriamo bene. Si è fatto un po' tardi, sono le 8, ora di cena. Ci sentiamo Gavì, grazie delle 4 chiacchiere, è stato un piacere, di nuovo buon anno, ce la risentiamo magari anche domani eccetera, io poi non lo so, sto un po' cena, se riattacco vedo un po' se c'è qualcuno e vediamo un po' cosa ci riserva la radio, sicuramente nei prossimi giorni. A te il microfono. Ecco, sì, registrato Greco. Io dopo, se vuoi entrare la radio è accesa, io sono qua, io adesso non mangio roba leggera. fatto un'insalata, una mozzarella e poi vengo qua perché mi sto leggendo, dai, sto studiando della roba, che ho un corso, però c'ho la radio accesa, quindi se vuoi entrare chiama, e non ci sono problemi. Avanti, prego, buonasera a tutti. Volevo salutare anche Carlo prima che andasse via, infatti sono entrato di gamba tesa, come si dice. Ciao Carlo, ben sentito, tanti auguri, idem all'amico carissimo Gavino, ok, riprendi Carlo così si saluta. Buonasera, sì, Robè, già ti ho sentito, auguri, buon anno anche a te, grazie che sei entrato a salutare. Io sto chiudendo perché sto preparando la cena, nel caso ci sentiamo, ti lascio in compagnia di Gavino, rimango in ascolto un attimino per il finalino e poi vado a fare un po' di caricabatterie, nel caso ci sentiamo più tardi se c'è qualcuno. Buona serata a tutti, ciao Roberto, di nuovo a te Gavino. Sì, ciao Carlo, buona carica. Ti ripeto, dopo se vuoi entrare io mi fa la chiamata, tanto già sono in radio qua. Sono in radio, dopo cena mi posso trattenere, dai, e niente. Sì, sono in radio. Scusa Roberto, ti ho dato il tino, ma mi sei arrivato a scheggia e mi sembrava un po' la cosa il tino quando entra a palla, quando fa le sue entrate a palla. Ripeti Roberto. Sì, no, normalmente aspetto un pochettino, dai, sono intervenuto velocissimamente perché ho sentito che stava andando via, infatti vi stavo ascoltando qualche minuto, ho detto prima che vada via, ho lasciato concludere le discussioni, ero da altre parti, ho detto aspetta, prima che vada ci tenevo a salutarlo. Ok, di nuovo a te Gavino, avanti. Sì, allora com'è? Cosa stiamo combinando? No, diciamo abbiamo finito con le festeggiamenti, almeno si crede, spero di sì, perché questi giorni è stata un po' pesantuccia per l'organismo, anche troppo, dai, soprattutto il cenno natalizio è stato molto delicato, diciamo, per l'organismo. Oggi, ieri diciamo abbastanza, un po' più regolare, e oggi c'è stato il continuo, dai, speriamo che finisca tutto e ci troviamo un anno migliore di quello che abbiamo passato e che stiamo soprattutto bene, sereni e di buona salute, dai, e per tutto il resto quello che viene prendiamo, dai. Ok, cosa ti volevo dire? Ero associato un attimo a Pratamona nel pomeriggio, ho approfittato della bella giornata, ho fatto un giretto, bellissima serata, pomeriggio anzi in questo caso, stamattina dice ci hanno fatto il bagno giù, ha detto c'era un sacco di gente, iscritti 100, partecipanti probabilmente anche qualcuno di più, il mare era bellissimo, c'era un sacco di gente a Balai, ho visto stasera, qualcosa di meno a Porto Torres, però nel lungomare c'era un sacco di gente. Che ci dici tu invece, cosa hai fatto di bello? Io ero, guarda, io ieri sera ho preso, mi sono coricato, mi sono fatto dalle 4 alle 16:15 fino alle 19 quasi a 30, stand by, niente, mi sono preparato, poi siamo saliti a stasera dalla mia suocera, abbiamo cenato all'una meno un quarto, ero qua a casa, infatti ho acceso la radio, non c'era nessuno, ho spento. Questa mattina niente, ho fatto qualche cucina fuori con la campagna, e sì, sono sceso anche a Porto Torres erano 11:30, per vedere sì che c'erano i bagni, c'era il bagno del primo dell'anno, lo fanno ogni anno, c'era anche il gruppo delle canoe, l'unica cosa che mi è piaciuta è che non c'era un bar aperto, oltre il cristallo non c'era un bar aperto, e quella è una vergogna, però perché mi vuole, adesso mi fermo, mi bevo 4 galloni di birra perché ero in forma, e invece non c'era un bar aperto, quindi sono andato a cena a pranzo con mia madre, scusa, e poi sono venuto qua e ho acceso la radio. Quando mai in una giornata del genere non devi aprire un servizio, per uno per tenere un aperitivo, sai, niente. effettivamente il portatore. Allora io stamattina mi è arrivato un messaggio che il credito era inferiore a quello dovuto per fare una ricarica, che stranamente poi funzionava, non capisco questo messaggio. Ho chiesto a mio cognato, che lui c'ha la possibilità di farmi una ricarica online, e me l'ha fatta da 10 euro, e ho detto vabbè, magari facciamo una qualcosina più. Ho girato tutto il bar di Sassari, il tabacchino era tutto chiuso, sono partito dalla zona dove abito io, zona stadio, sino a scendere giù, fatto di zanfarino, tutto. Gli unici locali aperti, dove ho potuto fare una ricarica, di quelli del Bangladesh, giù nella parte bassa di Corso Vittorio Emanuele. C'era questo qui, quello non la festa, non esiste, e poi risalendo verso su, ho fatto via Roma, c'era Naturali aperto, quello dei gelati e due bar, e boh, tutto il resto era chiuso, forse quello di Piazza Italia, ho intravisto dalla gente, quello giù nella parte dei portici, forse quello era aperto il bar, tutto il resto era tutto chiuso, non c'era niente aperto. Idem e Sassari come portatore, poi io non ho mai capito la logica dell'assessorato del comune, eccetera. Non dico oggi, ma io parlo in giorni, quando si sa che arrivano le navi da crociera, l'estate che c'è movimento, che arrivano migliaia e migliaia, centinaia e migliaia di persone, tu a una certa ora è tutto tan caldo, rimangono aperti qualche pizzeria, qualche bar, però è tutto chiuso, tu vai al Alghero, tu ci parlerai anche a mezzanotte all'Alghero, è pieno di gente, non c'è il traffico passeggeri che può avere Porto Torres, perché Alghero è un posto turistico, però la gente che passa a Porto Torres, solo forse Olbia riesce a superarlo come numero di persone, e non riescono a mandare avanti una città, tutto abbandonato, basta in quel lungomare di Malai, tutto con la camminata, tutto distrutto dai vandali, come ci passi tra un anno, 2 anni, trovi lo stesso problema, sempre peggio. Però a te, Gabino. Ma questa, guarda, lo sai, vabbè, io ti parlo del 98-99, Porto Torres, la gente rimaneva, cioè usciva, tutti i ragazzi uscivamo, io rimanevamo tutti sul lungomare, ma si partiva, diciamo, da dove c'è la spiaggia della Renaretta fino alla spiaggia di Barai, c'è cioè tutto il litorale, tutti i sedutini, ma anche d'inverno, lascia perdere uno c'è tempo cattivo, però le giornate così di mattina, e poi stavamo tutti lì, chi con le moto, chi con le macchine, c'erano le gare delle luci del turbo, c'erano le gare, c'era gente che sprecciava con le macchine, era grande, cioè, bello. Porto Torres, secondo me, ha una cosa, da quando è così, è diventata così, da quando è entrata l'autorità portuale di Urbia, perché adesso ti faccio un piccolo discorso. Allora, hai visto, ci sono le due rotonde dove c'è il Tropical e dove c'è il ristorante, quello grande a Balai, c'è un'insenatura, quella si chiama Punta San Gavino, allora, da lì, da quella prima insenatura fino ad arrivare a Fiume Santo, non la centrale, Fiume Santo, quello lì è autorità portuale di Olbia. Da Punta San Gavino, andando verso destra, Balai, Platamona, lo studio Ricco, Abba Corrente, fino alla Abba Corrente, quello è il comune di Porto Torres. Quindi tu pensa, fatti due conti, allora, tutto il litorale bello, diciamo, commerciale è di Olbia, autorità portuale di Olbia. Se tu chiedi il permesso per aprire un chiosco di lì, per fare un concerto in quelle due insenature, per fare una manifestazione, è impossibile. Il porto l'hanno ridotto, diciamo, è un carcere, tutto chiuso. Prima si metteva qualcuno a vendere panini, la gente andava a pescare, la notte che scendevano la Sassari, adesso non puoi più fare niente. Purtroppo quando succedono queste cose, ma è un peccato, perché è una bella cittadina, c'ha un bel litorale, hanno fatto quelle spiaggette carine nuove, cioè volevano, io infatti ho detto bene, più o meno nel 99 quando c'erano, mi ricordo facevano i carnevali estivo, c'erano dei concerti, incontri di pugilata, allora non c'è più niente, quel carnevale estivo ci andava una marea di gente, l'hanno fatto un paio di volte, poi sempre ogni anno peggio, il primo anno bellissimo, poi ogni anno si successivo, o già alla fine non aveva fatto più nulla. Io mi ricordo c'erano gli incontri di pugilato a Balai, facevano dei piccoli concerti, sono piccoli, anche di personaggi e di gruppi importanti, avevo visto il concerto della PFM diversi anni fa, erano cose carine, e poi adesso non vedi più niente. Beh, la PFM ce l'ho io. Concerto della PFM ce l'ho io, ce l'avamo loro. E... niente. Non vabbè, sia PFM, sia Francesco Baccini, sia Mattia Bazzar, comunque, la lasciamo. E tutta roba fatta non dal comune, di lì un imprenditore portatore si è sborsato i soldi e ha fatto questi concerti, perché quello non è organizzato dal comune portatore. Il comune portatore addirittura si è fatto pagare l'area, mi segui? Dico per essere chiari, perché quella roba non l'ha organizzata il comune portatore. Quella roba l'ha fatta, l'ha organizzata un imprenditore di Porto Torres. Il carnevale tipo era organizzato non dal comune di Porto Torres, era organizzato dall'AGET, l'Associazione Grandi Eventi Torretani, dal quale io ho iniziato a fare i carri dal 2001. Mi segui? Te lo dico per certezza perché ero in mezzo. E mio cugino, ti dico anche l'ex padrone della discoteca, lo Zoom, è lui che ha organizzato questa associazione e ha organizzato lui e insieme a un falegname di produttore il primo carro, si chiamava Pinocchio, era una balena, era una balena gigantesca con Pinocchio dentro, che dai, era un bel carro, se c'è su YouTube c'è anche questo video qua. Produttore c'era anche la città delle discoteche, Blue Night, The Zoom, il Kiss, c'era un po' di movimento, un periodo avevo organizzato anche un palazzetto grande dove si ballava, adesso non c'è più niente. Sì, hai detto benissimo. Ma io mi ricordo poi, durante la settimana, nel periodo estivo, in quella piazza del comune, organizzavano sempre qualcosa. Avevo visto quel gruppo di Cagliari, veramente bravi, Radio Queen, non so se ti ricordi, quella Mind the Cover di Coso, dei Queen, bellissimo. Poi ho visto altri gruppi così, niente, non dico a livello nazionale, però a livello regionale, canzoni sassare, si faceva tutto. Poi, almeno, io penso, 8 anni a questa parte, non ho più visto niente. Chiudevano la strada al traffico, la sera, era un piacere, perché noi d'estate stavamo di lì ai Casotti di Abba Corrente, perché siamo nati lì, si può dire, ci avevamo fatto tutti gli estati, tutti amici, parenti, eccetera, e la sera si andava a Porto Torres e diceva: andiamo, magari ti mangi una pizza, una cosa, un panino, e poi proseguivi di lì, e c'era sempre qualche evento, anche infrasettimanale, poi ho finito tutto, non si vede più niente. Sì, vabbè, sì, è diventata una porcheria, a livello... Poi si è diventata, diciamo, una città ricca a livello industriale, mi segui? Cioè, ma tu ci pensi che da lì, dalla zona, dalla EON, da come si chiama, non ricordo neanche come si chiama, cioè la corrente non è che la usiamo noi, prima va in Francia, poi ritorna. Ma è una cosa normale, almeno bugia, non ho detto bugia, sto dicendo, però ti metto questa cosa, non è bugiardo. Cioè, ma stiamo scherzando, che siamo la città che paga la bolletta più cara della provincia di Sassari e abbiamo la merda noi, di lì tirano il contentino, facciano di fare le fermate, adesso da poco hanno fatto una fermata, è durata 4 mesi, hanno preso, non lo so, 2000 persone, 1500 persone, 4 mesi di lavoro, ci vediamo fra 3 anni. Purtroppo è così, è vero, noi forniamo la Corsica all'energia elettrica, no, non ti preoccupare, purtroppo sono cose politiche, lasciamo perdere, chissà cosa ci hanno svenduto e cosa ci hanno mangiato per fare certe cose, è una cosa assurda. Anche ci avete a Porto Torres quel parco archeologico che ce lo invidiano da tutte le parti della Sardegna, unico, per non dire raro, unico, è pieno di scienze, di storia, eccetera, sempre da incarico. esatto, tu non sei tu veramente, quando vengono tu dici, se pubblicizzi, fai vedere le cose, c'hai quella specie di museo, se la giustano, fatto da privati, perché il comune non ha fatto niente, se dai la possibilità di farlo funzionare, di ampliarlo, nulla, non è una futiluta, è un peccato di cittadina. Allora noi io di lì ho fatto un concerto, un coro gospel in quelle rovine. Era, a vederlo era emozionante, perché come abbiamo piazzato 3 giorni prima, si parla del tasse, 3 giorni prima siamo andati per installare solo l'impianto luci, solo con le luci. E abbiamo creato questa atmosfera, era, non lo so, era pazzesca, poi con questa musica gospel, belli, bravi, ordinati, è stato una sera, c'erano persone a non finire, è stato un concerto a chi piace, io queste cose le adoro. È stato un concerto, ma io ti parlo che non si vedeva un diffusore, c'era solo il palco con le minigonne e non si vedeva un diffusore. L'ho fatto una filo diffusione, era fenomenale, cioè la gente si girava e chiedeva dove veniva il suono. Neanche perché qui i microfoni li dai, li abbiamo messo i panoramici ed era in pratica per tu li vedevi le altre in alto, basta sul palco. Senza americane, senza niente, nudi e crudi, con lo sfondo del castello di Re Barbaro, bello, bellissimo. No, con le Gasperi ne ho seguito tanti, sia in cosa, Olbia, un paio a Olbia li ho visti, forse qualcosa a Porto Antonio, se non vuol dire, ma non lì, non in quel sito archeologico, poi li ho visti a Sassa, dentro delle cattedrali, dentro delle chiese, no? Quando vengono questi americani sono da paura, cioè è un piacere ascoltarli. Poi ci sono i cori, naturalmente i cori polifonici, quelli che abbiamo anche noi, però quando vengono questi qua dagli Stati Uniti, questi di colore, la maggior parte hanno un'armonia, è uno spettacolo vederli, a parte come sono vestiti e tutto, sono veramente bello. Poi vabbè, è capitato anche qualcosa di poco carino, che magari facevano brutte figure dalle secche che prendevano, però quelli che ho visto, molti erano veramente spettacolari. Probabilmente quelli che stai nominando tu sanno anche quelli americani, quei gruppi, diciamo, del periodo dello schiavismo, perché i cori gospel sono nati dal periodo dello schiavismo e poi piano piano sono stati riproposti in tempi moderni. Di nuovo a te, Gavina. Sì, erano quelli americani, tra di loro c'era anche la conosciutissima Pina Muroni di Olbia. Oltre al coro gospel facevano anche un canto in crossover, non so se rispetto lo conosci, c'erano queste tre erano inglesi che cantavano e che facevano questa sezione in crossover, erano spaventose, perché poi non hanno cantato sul palco, si sono spostati, avevano questa location di lì, sempre abbiamo fatto una situazione che era bellissima. E di fronte cosa c'è? Il ponte dismesso dove passava la ferrovia. Una cosa bruttissima. E per dire, quel ponte non puoi valorizzarlo, fare qualcosa di lì, in quella situazione, cercare di creare qualche cosa per le visite guidate, cose. C'è un sacco di storia di lì, perché è molto più antica, probabilmente è una delle situazioni più antiche della Sardegna, a parte i nuraghi, vabbè, i nuraghi lasciamo da parte, però parliamo di cose più recenti, dai, di età punica e cose del genere. Solo puoi trovare qualcosa a Carloforte, a Cabras e basta, non ce ne sono, forse qualcosina a Cagliari, adesso ogni tanto ne scoprono qualcosa, però sono cose che attirano turisti stranieri, non turisti italiani, tedeschi, olandesi, del nord Europa, sono innamorati di queste cose perché loro non le hanno mai visto. Io mi sono trovato, io giro abbastanza, a me piace tantissimo col campo, giro vedere località nuove, posti nuovi, e io ho notato una cosa che è una vergogna, noi sardi, parlo in generale mettendomi anche a me, di trovare trovavamo in posti dove c'erano più stranieri, non dico italiani, stranieri rispetto agli italiani. Sono andato in dei posti per sbaglio, vedevo della gente cercando informazioni, mi trovavo dei tedeschi, io di lì, pieno di tedeschi, olandesi, dice gli italiani da questa parte per la lingua e gli stranieri dall'altra, erano 35 stranieri e 3 italiani, per farti un confronto. Noi non conosciamo neanche i nostri meriti e le nostre storie, cose a volte capita. Oggi c'era nel museo, ho notato stamattina, il museo Sanna, che bellissimo, non so se sei mai andato, aperto. Tu hai letto o sentito da qualche parte che oggi c'era aperto il museo di Sanna. Ho visto che era aperto, ho visto un paio di persone entrando dentro. Ormai era tardi, dovevo rientrare a pranzo, se no sarei rientrato. Ed è una vergogna che non apprezziamo, non fanno modo di rendere vivibile le cose. Ogni tanto fanno questi monumenti appesi, così fanno sempre le domeniche, un giorno l'ultima del mese, la prima del mese, in modo che attiri la gente e fai conoscere la cultura, la nostra cultura sarda, che abbiamo tantissime cose da rendere note al resto della Sardegna, al resto del mondo. E non c'è niente, non abbiamo, tu adesso vedi pubblicità, andiamo nelle Marche, andiamo in Sicilia, andiamo lì, fanno sempre pubblicità. Io non vedo la pubblicità, qualche volta della Sardegna la fanno per le televisioni straniere, ma nelle televisioni nazionali, in particolare, anziché spendere soldi per buttarci soldi, io dico sempre, i concerti come hanno fatto questa Sassari, che era una cosa ridicola, quei soldi li investi per pubblicizzare la città di Sassari, ti fai vedere tutto quello che abbiamo nel nostro piccolo, un dottor reside, invece fa delle cose che soldi buttati per cose inutili, di nuovo avanti. Sì, infatti, come va? C'è un break a poco fa. Mi fa dei video che erano. Cos'è lui? C'è un break da poco fa. Ah, scusa, non lo sento, adesso facciamo le avanti. Non c'era niente, si sa, non c'è niente, quindi facce, non fai niente, non fai la brutta figura, però non fai niente. A Sassari ieri è stata una cosa, secondo me, un po' dai organizzata a non fare niente, perché l'hanno fatta troppo losca, perché una città come Sassari non può permettere, cioè, delle piazze, niente da togliere, ma lì gruppo per chi piace, perché non tutti abbiamo gli stessi gusti, c'è chi piace, c'è chi no, ma a me non mi crea fastidio, io rispetto qualsiasi tipo di ideale delle persone, sia dalla musica rap, alla musica country, alla musica rock, e al ballo di gruppo, al karaoke, va bene tutto, però non vuoi organizzare concerti, non vuoi organizzare niente, almeno non un attimo, proprio, ma non fare niente, zero, dai, libero, dai, locali, organizzatevi, fate musica, fate quello che volete, però a Sassari non ci sarà niente, perché i soldi servono per fare altro, la parentesi. Comunque, io una schifezza del genere, avrei neanche fatto, perché ti rendi del ridicolo, perché io a Tortoli c'era l'Itazenda, a Tortoli l'Itazenda, era un pezzone, Catezzardo DJ, a Iglesias c'era Fezza, diciamo ogni paese a Caprono cerca di dare un servizio per un cittadino, non dico che devi spaccare il mondo, ma almeno fai mettere un mercatino, una cosa, dei gruppi locali a suonare, metti un parco, i comuni hanno i parchi, chiama un servizio, anche piccolo, dice ai gruppi locali, quanti siete? 4 o 5, mi coprite dalle 11 fino dalle 11 di notte fino alle 2 del mattino, me lo coprite quando volete, 2000 euro tieni, non credo che un comune non abbia 2000 euro per pagare 4 gruppi locali. Io ho visto certi video, sono rimasto scandalizzato da ieri, cioè l'hanno fatta troppo lunga. Capa, se c'è qualcuno che voleva entrare, avanti che vuole entrare, dice c'è stato un break, c'era Luca, ha detto c'è stato un break, avanti il break. Gaffa, buonasera a tutti. Ma tu vedi tu? Gaffa, che stanno scaldando i motori. Ah, non ti abbiamo sentito, dai, in compagnia mia e di Calvino. Poi salutiamo anche a Luca, vi faccio a tutti gli auguri, anche se credo li abbia già mandati a entrambi, però ve li rinnovo come primo dell'anno, dai. Di nuovo Antonio, che poi passerà il mic a Calvino. Vai Antonio. Gaffa, saluto a tutti. Calvino, mi senti ora? positivo Antonio, basso ma ti sento e... dai, era messo un pochino di bamba per l'apparecchio. Riprendi Antonio. Ho la bestiolina accesa, ma tu c'è qualche problema? Dai buono. Tu controllate le stazionarie. Ma è a posto. Ma sai che c'è Alghero pure, avanti Alghero. Ciao Galvino, comunque ciao Roberto, buon anno. Ciao anche Alghero, buonasera anche a te. Ciao Antonio, sei tutto a Trudia. Guarda a vedere ora. Questa è la caccia del subwoofer, era tanto sotto, boom. Riprendi, vabbè. Stavo dicendo, tanto sembra che c'è il subwoofer, si sente boom. Comunque saluto anche a Mirko, mi hai sentito Mirko, tanti auguroni, anche a te, tutto quello che desideri. Vai, vediamo Antonio se ha risolto, perché non mi piace come sta uscendo Antonio. Aspettare. Ecco qua, prova a vedere. No, Antonio, stai andando bene, ti stai portando un rientro di brutto, proprio o stai sopra caricando l'ingresso, non so cosa stai facendo. Antonio, sembra che sei sopra la nave. Adesso sei già 8 di segnale, cosa hai combinato? Adesso com'è? Sei salito, tanto, ma sei attento che non sfasci niente, non vorrei che tu c'hai dei rientri perché c'è l'antenna troppo vicino al muro o qualcosa del rosso troppo alto, verifica anche le stazionarie, quando attacchi questi apparecchietti bisogna stare molto attenti, soprattutto se c'è antenne vicino al terrazzo. No, lascia perdere, ho attaccato il coso, l'amplificatore a valvole, ma no, non va bene, no. Da parte mia va bene anche senza niente, sei quasi 9,5, va benissimo così. Se quella cosa che hai messo sta solo creando disagio alla modulazione. Aspetta, facciamo rientrare un attimo un amico per i saluti, vediamo se Gavino lo ascolta. Vai Mirko. Beh, speriamo bene, speriamo che ti ascoltino anche meglio e poi magari facciamo prove in altre frequenze visto che anche tu hai preso la benedetta patente, la tanto desiderata patente. Ok, vai Gavino a te, l'hai ascoltato a Mirko? No, buonasera Mirko, se mi senti, auguri buon anno. Non ti ho copiato, cioè bugia, ti ho copiato però bassissimo. Dovrei mettermi in cuffia. Attenzione che io qua non ho capito cosa è, ma questa mi porto dietro una sorta di alternata pazzesca, vabbè, non ho capito il motivo. Tu ti porti dietro? Sì, no, scusa, non mi porto dietro, in ascolto, diciamo, in ricezione, ho un QRM fastidiosissimo, simile alternata. Ma anche quando parlo io? No, quando si è modulazione no. Però quando per esempio adesso Mirko mi arriva dentro il QRM non lo occupo perché ho questa specie di alternata strana. Ecco. Che avanti? Non ho capito, tu sei. Ma perché scendi così? Da 9,20 scendi a 9, poco fa eri quasi 9,20 quando eri attaccato, 9,15 e superavi pure. Poi sei sceso a 9,10, poi a 9, a 8, cioè un cambiamento di segnale impressionante. Ancora adesso sei 9. Poco fa che ti ho detto va bene anche senza amplificatore eri 9,5, quasi 9,10. Poi come hai attaccato con quella specie di rumore eri quasi 9,20. Cioè questi cambiamenti di segnali impressionanti. Tanto sistema e attento a non lasciare niente, se non piccaggio, che sono soldi. Ok, Mirko, quanto prima cercare di risolvere i problemi così ti possiamo ascoltare tutti, dai, perché è un peccato. Io ti ho detto qua siamo molto favorevoli, ti ascolto benissimo, sei 9 di segnale, però qualche altro ha difficoltà e qualche altro non ti ascolta per niente, per cui è sempre meglio avere la possibilità di farti sentire da tutti. Luca, se vuoi partecipare ti rilancio il mic, se no riprende Gavino. Io vi ascolto, ho detto se sta mandando una cosa, una scheda di un televisore. Tu stai andando che una scheggia, no? Poi più 40 sei Luca, sei aiutato mi immagino. Sì, si è agganciato, oggi sta parlando un po'. Non so se capiamo un prodotto se mi ascolta, buh. Positivo forte chiaro per un passaggio che ti do un controllino Luca, tu mi ricevi di là, nelle tue coordinate, guarda un pochino, ora, ora, ora. Sì, da me sei 9, no, va picchi positivi. Guarda un po'. Segnale 7, ti ricevo radio bella, la radio mi piace, perché è comprensibile, è chiara, non ci sono problemi, segnale, diciamo che 7, ma non è che mi importi più di tanto, mi interessa la radio, riprendi Roberto. Sì, Luca ha sempre avuto belle radio, l'ho sempre fatto, nei baracchini è sempre stata una delle mie preferite, a parte, vabbè, probabilmente c'è anche le corde vocali favorevoli, però sempre eccellenti le modulazioni col suo baracchino. No, tu, Luca, arriva 9,40, modulazione perfetta, tu invece Gavino sei un po' più basso, sei 9,10 anche tu, modulazione bellissima, bella, forte e chiara, niente da eccepire. Se mi vorrai un controllo, ma penso che ci riceviamo più o meno nello stesso modo. Sì, positivo, ti arrivi 9,10 picchi positivi, 9,10 picchi positivi, vado super cibo, Roma. Non ci sono problemi. Ti arrivo un po' più basso delle altre volte, Roberto? No, sempre intorno a 9,10, forse qualcosina qualche volta a 9,10 qualcosa, ma siamo sempre intorno a quel valore di mare, possono dipendere anche le condizioni atmosferiche, però sei sempre intorno a 9,10 qualcosina di più, quei picchi decimali a superarlo un pochettino. Ok, io direi di rilanciare a Mirko, vediamo un pochettino, avanti Mirko. Dipende da cosa vuoi prendere, se vuoi prendere una trazione base, un bimanda veicolare, non so, devi capire le disponibilità economiche. Io i veicolari, se uno ha possibilità magari riesce a prendere qualcosa di base anche meglio, se non ha utilizzo in auto, per dire se vuol fare una cosa fissa. I veicolari a me non mi piacciono più di tanto, ma ci sono quelli della Kenwood, di Aesu, bimanda veicolari con prezzi abbastanza ragionevoli, anche degli usati, sono a radio complete, hanno anche qualche watt, dai 50 ai 100 watt in VHF e 50, 25, 40 dipende dall'apparato in UHF e li trovo intorno dai 150 euro in su, a seconda anche quei modelli di ultima evoluzione o qualcosa di più vecchio. Poi se vuoi coso, trazione base, ci sono radio diciamo abbastanza impegnative, c'è anche il TS2000, ti fa fare tutto, ce l'ho io, ti fa le V, le U, le HF e 50 MHz, però sono radio per paghi dai 900 euro in su, poi puoi trovare qualche affare, se no te le fai separate, magari risparmi qualcosina, ti fai una radio che ti fa le VLU, te la paghi intorno ai 500 euro e poi le HF e vedi un po', più o meno il budget è quello, anche qualcosina di meno dal minimo, se magari prendi un 440, un 140, ma mi sembra che ce l'hai tu un 757 se non sbaglio. Ok, rilancio un attimo la Gavino così non monopolizziamo e poi riprendi tu Mirko. Sì, positivo. Adesso guarda, devo spedire una tarattola a Bianconi, il 737 della Icon, che ho fatto un danno, niente, devo spedirlo in 10 lo spedisco, così è tranquillo con la spedizione, che gli arriva e me lo ripara. Niente, dopo aver riparato parecchio gli metterò un SMR, un microfono della Icon, diciamo che il suo abbina, che si abbina, c'è niente, tutto. E tutto va bene, io per la PRM, guarda, una Lincoln di 605, vedete c'è un 50 watt di una spinta. Io ti appoggio. Niente, Antonello, ciao Antonello, da tutto tempo senza sentirti, auguroni anche a te. Auguroni a tutti. 9,60 lo superi tu, o cosa si trattende? Un kilowatt? No, sto usando 50 watt quasi. No, 50 tonni. Non mi sei fatto per adesso. Sei saturo però, Antonello. Oi, ciao, bello bene. Saturo. Aspetta, scendo di meno. Guarda, c'è anche il materiale alto. Va da po'? Adesso va bene, ottimo. Eia. Saluto di Luca, ma perché intanto parli spagnolo? Spagnolo? Su Facebook. C'è spagnolo? Non te l'ho capito. Mi piace quando parli tu in spagnolo, non ho capito il perché. Siamo educato. Ma gli altri no, solo tu, il bello è quello. Ma voi mi hai impostato in spagnolo, avanti capi. Vabbè Antone, non portando, buonasera, buon anno. Buonasera, chi è, chi è? Joker, buonasera. Ciao Joker, ben sentito anche a te. Buonasera, ben riscucito. Ripeti Roberto. Ehi, no, stavo rilanciando a Mirko adesso. Avanti Mirko, che tipo di budget c'hai e che intenzioni hai soprattutto di radio? Sì, li trovi, un bel ricolare bimanna lo trovi. Ma tu stai parlando con le VLU o con le HF, scusami. No, con 200 euro lo trovi un buon apparato bimanda. Io bimanda non ce l'ho, ce l'avevo, l'ho dato via qualche anno fa, ho fatto uno scambio dei veicolari, mi è rimasto la Lincoln nuovo ancora col cielo fan sul frontalino, l'ho tenuto qua per attaccarci una direttiva per metterlo su un transponder, cioè per utilizzarlo su un ponte in particolare, perché poi col TS2000 faccio tutto e poi ho un vecchio 711 della Kenwood, un alimentatore dentro contenuto, quello non è tune, però una radio che funziona bene, completa, un trattore, nel senso un muletto, non ha nessun problema questa. Ok, Gavino, rinnovate il mic che poi farai girare per Antonello e Luca. Positivo. Io Vito l'ho ritenuto basso, ripeto. Ma lui che apparato sta usando adesso? Il 3009 Mirko sta usando, Mirko? 3009 o 6009? Non ho capito. 3009. Sì, 3009. Ma tu l'ascolti a Gavino, Mirko? Ma capisci quello che dice? Vediamo un po', Mirko, mi ascolti a me? Io, segnale 9, mi hai detto. Ok, adesso c'è un po' basso da me, forse magari ha un'antenna un po' scarsa, ecco, diciamo così. Comunque, stasera, oggi ero ad Alghero, c'era molto caldo, tu pensa che c'erano delle barche a vela parcheggiate, un tipo prima di buttarsi in acqua si è abbassato, no? È andato lì nella scalina, c'era la scalina per salire sulla barca, però erano un po' lontani, erano un po' spostati dalla... non erano attraccati, tocca l'acqua e si spoglia questo si è fatto il bagno, e l'acqua da Alghero è fredda, affanna. Già lo so, vabbè, ma che ti sono abituati, sai che sono norvegesi o qualche posto tedeschi, loro, io ho visto delle cose con l'acqua ghiacciata e loro tranquilli in montagna, in posti dove c'era l'acqua a 4-5 gradi in alta montagna, che ti si fa già nel bagno, infatti vabbè, diciamo, sono così di natura, abituati al freddo, noi siamo un pochettino più freddolosi. Gavino dice che ti ascolta comunque, ti ascolta intorno a 4, riesce a tirarti fuori. Mi ha detto Mico. Mico, ma tu sei con la filare o cosa c'è la verticale? Ma no, io già ti tiro bene, non c'è problema, ma ti ripeto, Alghero ce l'ho di fronte e lo vedo, io vedo il coso di Capocaccia dove c'è il coso del faro, riesco a vederlo io da qua, per cui è tutto aperto. Ok, chi tocca? Tonello e poi Gavino. Grazie, stava bene oggi, stamattina quando sono uscito, sono state le 9:30, c'erano già 18 gradi, c'era. Qui a Cabolazzi, figurati, stava benissimo, poi sono andato a casa e va più, adesso c'è vento invece, non ho capito, questo vento tipo maestrale, non molto forte, ma già c'è. Vabbè, oggi c'era Scirocco, il giorno prima c'era Rimbiccio, ma ho visto che su in continente ci sono punti che c'è un po' di acqua, per cui abituiamoci, tra qualche giorno anche noi arriverà con la perturbazione. Ok, di nuovo Gavino. Sì, tra qualche giorno dato fatico. Legate le antenne ragazzi, perché ha dato tempo cattivo, vento e pioggia, Antonè, ti sento un pochino cupo, io come una drizzata di Ciaffari. Dai, fallo andare, addrizzagli un po' la voce con la roba. Sto usando 140, mi non sto usando un baracchino. E appunto già lo so, già ho capito che sto usando 140, però addrizzagli un po', io aggiungo un po' il microfono con la roba, dai. Abbassa un pochino il fatto e lo metti al macchinino, o se no fai, abbassa un pochino tutto. Aspetta. Il mongo salerno sarà. Bravo, lo vedi che l'altro giorno quando ci siamo sentiti eri una scheggia qua. Oggi hai fatto qualche esperimento di tuo con il microfono e mi sembri coso. Come si dice? Ma sotto le ali. Una brizza più no, ormai. Smetto del controllo, vecchia. E beh, qua. Non so se devo addrizzare anch'io, perché anch'io non ho addrizzo più, quindi la radio è questa, è già addrizzata. Non so, tutti sotto possono salutarmi e richiedermi. Ciao Gavino, Roberto, Mirko, che è una marea di tempo che non lo sento più, e vabbè, io non ci sto più entrando. Un saluto a tutti e un buon inizio d'anno. Ciao Clara, auguroni anche a te da parte mia. Ciao a tutti ragazzi, divertitevi e passate un buon inizio d'anno. Non so se mi ascoltate sempre bene, io qua non ho niente da drizzare, tutto drizzato. Tutto drizzato, sono roba col di dietro. Auguri Clara, buon anno. Addirittura solo roba col di dietro, tu riprendi Roberto. Ti avevamo cercato Claudio, ti avevamo chiamato tante volte, c'era anche Walter, c'era questo di Furi in diretta da Perpignano, arrivava da una bomba questo radioamatore, e poi è stato Roberto, e poi chi c'era, non mi ricordo chi c'era, avevamo chiamato un sacco di volte, ho fatto bussano che Claudio non entri. Ok, ci stai facendo sordo Claudio, comunque poco già ti sentiamo, dai, vediamo a Mirko di nuovo che lo rilanciamo per i saluti a Claudio. Vabbè, toglierò il tempo, no, sono rientrato poco fa, perché poi da pranzo sono sceso a Porto Torres, poi siamo a Alghero, insomma siamo rientrati poco fa, infatti manco cenato, niente, stanotte non si c'era, ho dato un po' di frutta e basta. Sono entrato a spegnere la radio, sono andato a Roma, ho sentito voi, niente di che. Un abbraccio a tutti e ci sentiremo, insomma, nell'arco dell'anno sicuramente. Ciao. Gagarè. Divertite, va. Ciao a tutti, ciao Gloria. Un abbraccio anche a te. Fai gli auguri anche a San Caterina a tutti e già ci sentiamo. Durante l'anno ci sentiremo sicuramente qualche volta. Ciao. Ehi, molto contraccambiato, dai, avanti Gavino. Vai Antone. A me adesso ti piaccia il gioco. Più o meno uguale, però ha un po' di tonalità appena più alta per il mio orecchio, ha un po' di tonalità più alta. Però l'altro giorno arriva a vivere, Antonio. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ti piace? Positivo, dai, già lui sta arrivando 9,20 qua. 9,20 a picchi positivi, e sei un signore. Dai, sta bello. Sono contento. 30 watt, un picchio a 40. C'è un segnale nella tua situazione mentale, come sono? Sì, 9,10 qua. Se non neanche a... se mi sbaglio è a Bombo che è entrato. Antonio Bombo, o mi sbaglio? Sì, era lui. e a lui, riprenderò te. E io riprendo per salutarvi, dai, che adesso mangio qualcosa, poi mi sdraio un pochettino, sono un po' stanco, ho accumulato un po' di sonno arretrato, dai. Vi saluto tutti, iniziamo da Antonio, l'ultimo che è entrato. Tanto c'è qualche problemino perché sei più basso del solito. Poi salutiamo Mirko, saluto a Gavino, saluto a Luca, ho già salutato a Claudio e saluto ad Antonello. Ok, tutti salutati, di nuovo vi rinnovo gli auguri, divertitevi, fate la bravi e buon tutto. Ciao ciao, cuoriti da parte mia. Ciao, quanto mi hai sentito? Sei segnale 8, sì. Di solito arrivavo fino per 10 o per 20, mi pare. Andiamo, va bene, andiamo, va bene. Ok. Ciao, vabbè, ci sentiamo, stavi bene, buon cuoriti, buon tutto e auguri da parte mia. Anda bene, bene, a parte, a che tocca? Mercoli, a zero, mi pare. No, capito, sono palazzi rufi, dove stai che cambiato casa hai? Ah, sì, ho capito dove sei. Siete rotta a cuccia in pratica, là. Ciao Rubi, ciao Rubi, ci sentiamo le cucce, perché a 31 punti fanno andare via. Saluto da parte mia e cordialità. Ciao, fate la buona, buonanotte. Ti volevo dire Antonio, tanto che ci sei. Mi bisogna che ti ami di scala in quel palazzo, mi scala aerea, sali sopra il tetto e ti piazzi l'antenna dove c'era la manta qua prima. La linea fa schiattare per il gente. Ciao Roberto, ci sentiamo nel prossimo, buona serata. Ciao ciao. E anche la bomba ti va bene. Boh. Anche un, cosa ti posso dire? Una via 27 stelle, se riesci a trovarla, la metti distante dal terrazzino, non dovrebbero rompere le balle la difesa. Allora già va bene, non c'è problema. Pensavo che lì al centro storico, e invece sei andato nel QTH dove sei nato in pratica, diciamo così. Hai fatto bene, almeno sei più tranquillo, non c'hai affitto da pagare, cosa di là fuori. Sono soldi risparmiati. Allora, Roberto ha chiuso, c'è Mirko Laudero, poi c'è Joker, c'è Roberto e Luca del Monte. Avanti. Fai prendere i tocchi voi. Luca è sparito, ogni tanto va a mangiare quello. Siete mangiando panettoni, pizze. Sì, lo sapevi che stavo lavorando. Adesso sono fermo perché il creato per Simona, capito? Mi sono dovuto fermare. Se appena sono un pochino più tranquillo per lei, rientro come prima al lavoro, capito? Beh, sempre in festa ero in Chivite, mamma. Tutti i giorni 40, 50 persone, 30, dipende dai giorni. Noi andavamo al Gheo, capito? Lì a Magna, adesso mangiamo come l'asino, mangiamo a gratis. Cos'è entrato? Ah, quello sì, sono entrato nel giro giusto. Come si chiama? Gruppo Gas si chiama. No, sono delle vere persone che hanno, come ti posso dire, terreni più che altro, capito? Fanno la roba loro e poi la vendono, capito? Marmellate, quella roba lì, uva, carne, tutto, ognuno porta la roba sua che fa in casa sua e capito? Oppure la vendono, capito? Ce l'ho basso in quella bella anch'io, sentiamo 4, anzi 4 o 5 addirittura. Joker, riprende. È positivo ancora. Ah, quindi stai sempre lavorando, mi fa piacere, almeno ti rendi, almeno sei impegnato, dai, almeno sei impegnato. Ebbene, come sei conveniente, ma non stai entrando a Antonella, non stai entrando a Antonella la sera a farti quattro chiacchiere? Più che altro sto con il PMR perché lo uso per lavoro, capito? Quindi uso il suo canale 7, insomma. Io sono stato qui in campagna, uso il TML per parlare. Poi quando diventò qua la stessa identica cosa, perché poi parliamo io e gli altri due miei colleghi che lavorano insieme a me ogni tanto. Ah, quindi non sto usando, quindi questo qua lo sto usando occasionalmente, dai. Non sei, dai, come prima che ti dedichi un paio di ore. Sì, certo, ho provato. Tanti quali ho messo a casa, la mattina, rientravo alle 10 di notte. Tu figurati che a cenare ce ne avevamo giù al bar Regina Margherita, quello che c'è di fronte all'emiciclo. Tramezzini, oppure organizzavano pizzate e cose del genere, capito? Una volta che venite a casa, gara, di accendere il corso da parecchio. Beh, positivo, e anche io quando rientro tardi non accendo, quindi sono a casa, l'ho acceso, ho detto mi devi comprare la radio, va bene così, va bene così. Mi fa piacere. Niente. Antonio, faccio un attimino di stand by che devo controllare un attimino i cani. Dentro subito. 3 minuti, tanto potevo andare nel recinto, guardarli e rientro. Ehi, d'accordo, fai pure, non c'è problema. Adesso faccio scaldare il cable per bombe, non lo uso. Sarà minimo 3 mesi, forse. No, sono il tempo 2 o 3 volte. Che in quel palato c'è l'acqua di un bambino, capito, che ha rovinato tutto, insieme ai fratelli e alle sorelle, se no... E... se non fosse successo tutto quel casino che ha fatto lui, ha rovinato per le tegole, si è tranquillo, avesse avuto la manta, ma gratis insieme al capo. Ehi, già lo so, già cioè, meglio avevi detto. Ho detto, se non avesse combinato tutto quel casino per le tegole, ho detto, per quella parabola che c'era qua sopra. E se non aveva spaccato tutte quelle tegole, sono sicuro che l'ente popolare non gli avrebbe staccato l'antenna. Avesse avuto l'antenna gratis lì, la matta va col cavo, facevi altro che la possibilità di usare di salire, prendevi la scaleria a 5 minuti, salivi sopra, ti scendevi il cavo giù, dalla parte tua e muovi con la mantova. Purtroppo quello ha fatto un sacco di danno, salivano su ogni quando volevano a... hanno staccato tutte quelle tegole, capito? Se no mi è stato anche fortunato. Adesso se dovessi fare la domanda per sapere per fare la matta, va via, non te la fanno più piazzare, scordatelo. Già basta il piano che avevano fatto prima, tutte le tegole, una piccola, tutte e 3 quarti era. Quando sono salito io, tu figurati che ero appena un pochettino più magro di quanto sono adesso, ma un bel po'. Riusciva a salire con la scala, ma a scendere c'era un casino, perché toccava la pancia e io non riuscivo a trovare la scala con le gambe. Quindi dovevo far salire a un lato a indicarmi dove mettere i piedi e riscendere di nuovo giù. Tu immagini con il freno in mano, nulla nulla era. Ma come vedi con la scala aerea, se fai prima, sono 5 minuti, metti i tasselli quelli chimici, capito? Li fai asciugare, non fai altro che ci piazzi l'antenna come si deve, scendi il cavo giù e non ci pensi più, se ne muovi l'antenna. A me non fai danno per niente, la scala aerea arrivi direttamente nel punto dove devi piazzare e non fai nessun danno. Vabbè, quanto ti costa? Non lo so quanto sia ora, una cosa del genere. Comunque si potrebbe fare, perché a salire di là sopra, a uscire da quella finestra rettangolare, giusto io ci uscivo. Figurati. A salire già si poteva anche fare, ma a scendere se, ci rimanevi sopra. Loro salivano perché gli avevano installato la parabola, capito, col motore elettrico, e quindi a posto di girare a destra a sinistra, poi si cantava, allora dovevano chiamare il tecnico, saliva il tecnico, e cominciava, ma saliva lui, poi saliva il tecnico, staccavi tu, staccavi l'altro. e non c'era rimasto manco una tegola, solo il cemento c'era lì, e teneva la tegola, quindi figurati tu. Meno male, avevamo fatto tutto in lamiera. E quello con la lamiera come è andato? Cioè ho capito, quello già. Mi rifaremo il tappeto perché quello è scivoloso. Sono salito io lì a, in quel tetto lì simile, giù a Scala di Gioca, e d'estate non si può toccare, deve andarci per forza alle 6 del mattino. Perché se arrivi alle 11 mezzogiorno ci sono 30 gradi, non ce la fai, manca a salire tu. Perché come tocchi la mia è talmente bollente che ci puoi cucinare un uovo sopra. Capito qual è il discorso? E poi deve andarci con le scarpe con la gomma morbida, perché se hai gomma dura scivoli. Comunque se hanno fatto il tetto a norma, stai tranquillo, ci dovrebbe essere il gancio, cioè, il gancio con una corda in acciaio che va da una parte all'altra del tetto. Quindi ti agganci con una corda lì e puoi salire e scendere quando vuoi, non è un problema quello, ci viene anche bene perché non cadi dal tetto, capito? Se il tetto è fatto a norma, ci viene bene anche a salire, è anche a scendere.